Rassegna eventi. Dai. Eccoci qua, aspettavamo tornati. Una nota musicale a introdurre le nostre voci molto meno musicali. Avete l'onore di sentire la prima rassegna eventi indipendente. Oh, grazie. Da Fuoco alla Folle. Ottima, peraltro. Allora, dotiamoci di microfono. Eh sì, cari, tutti col microfono. Allora, consueta, da lunedì a domenica, cosa succede in questa città questa settimana? Si inizia da lunedì, oggi. Cosa facciamo oggi, stasera? Allora, stasera, verso il patto di mutuo soccorso. È un ciclo di autoformazione per comprendere il passato per costruire il futuro. Dove? Anzi, a che ora? Alle ore 21, presso la rete sociale Fuori Mercato, via Gran Bretagna, 133. È il primo appuntamento, l'800 del Movimento Operaio e il cambio di strategia da... Oh, io ho scritto male. Dal far da sé solidaristico alla conquista dello Stato, scusatemi. Figurati, caro. Questo stasera, ripeto, ore 21, presso la rete sociale Fuori Mercato, via Gran Bretagna, 133. Allora, c'è una proiezione Jay, se non sbaglio. Cosa? C'è una proiezione? Sì, c'è questa proiezione Le ali della libertà di Frank Darabont alla Cine Crepa alle ore 21.30. E presso questa occupazione La Crepa in via Foggini 18 all'Isolotto, fermata della tranvia Federica, davanti alla Federica. Esattamente, l'avete sentiti nell'altra trasmissione settimana scorsa erano i nostri ospiti, sì. Ci avevano detto che avevano intenzione di fare un ciclo, insomma, di cinema, di proiezioni, penso con un appuntamento all'incirca settimanale, e infatti Infatti questo è penso la seconda proiezione, credo. La terza. Ok, benissimo. Martedì 16, cosa succede? Martedì 16. Il nulla! Nulla! Ragazzi, riposo, state a casa. Dai, ogni tanto ci sta, è un teino, sto freddo, dai. Un teino, tisanina. Guardate un posto che lo puoi trovare in tutti questi posti, te, io penso, più o meno. Sì, quello sì, è vero. Se non volete farlo a casa, andatelo a fare. Vabbè, comunque, per fortuna c'è mercoledì 17 a riempire la settimana. E vai, cosa c'è? Diccelo. Sempre alla Crepa, dalle 17 alle 20, questo corso di autodifesa digitale, cancelletto zero. Che c'è scritto assemblea più primi giochetti. Importante. Esatto, il primo appuntamento di questo ciclo. Bisogna difendersi. Appuntamento zero. E andiamo, partecipiamo a questa nuova occupazione che rende più florida la nostra città anche attraverso questo corso di autodifesa. Digitale. Scusate. Arriva la gente con i guantoni. Non pensate, esatto, di andare con i guantoni perché... non si tratta, no, di cazzotti, non si tratta di cazzotti reali, ma pensi virtuali. Ok, cyberbullismo. No. Cyberbullismo. Mercoledì di... No, già no, fatto. Giovedì 18. Cosa facciamo? Di nuovo, proiezione demoniaca. Proiezione demoniaca. Proiettano possessione demoniaca. Bravo. Bellissimo film, l'ho già visto. Davvero. È divertentissimo. Ok, dove? A vederlo. Spazio Inchiostro, giusto? Spazio Inchiostro, via degli Alfani 49. Il appunto giovedì 18 gennaio alle ore 21. Anche questo fa parte del ciclo di Cine Inchiostro, che con appuntamenti settimanali più o meno. Bene, poi sempre giovedì, fra l'altro, alla crepa. Sì, però prima, quindi alle 18, c'è questa chiacchierata sulle lotte ecologiche degli indigeni peruviani, quindi ancora alla Crepa. Evviva, ci fa piacere sponsorizzare tutti questi eventi. E non finisce qua, perché giovedì abbiamo anche un incontro con gli attivisti del Bronx Social Center, organizzato da IAM, che è l'iniziativa antagonista metropolitana. IAM. E sempre giovedì 18 gennaio alle ore 21 in via Baracca, alla sede dello IAM. Possiamo dare qualche informazione. E appunto è un incontro che riguarda i conflitti e movimenti negli Stati Uniti, con incontro e discussione con attivisti. No, ragazzi. ragazzi, mi è partito tutto. No, malissimo, malissimo. Sono attivisti del Bronx Social Center di New York, quindi parliamo proprio di un di una cosa autoctona di con posto. Indigeni di New York, del Bronx. Senti, ma c'è anche un'altra proiezione di una cosa a me molto cara. C'è la proiezione del Black Mirror, episodio 2 e 3 della quarta stagione, presso l'occupazione di Via del Leone alle ore 21:30. Fantastico. Dice un po' una ciofecata la quarta stagione, così. Non l'ho vista, però. Io uno. Ma un po' d'angoscia della frase. Sì, ma certo, ma certo, di buono. Ma per forza. Però se vi viene l'angoscia, state tranquilli, perché ci sono homemade popcorn. Popcorn fatti in casa. Storicamente leniscono la. Dal basso. Parole a caso. Venerdì 19. Cioè, serata Breakers, venerdì. Al next. Dove? Alla Next Emerson o al Next Emerson? Al Next Emerson. Emerson. Femminile. Però non so cosa vuol dire Breakers. No, è proprio maschile. Al. Però la gente lo dice al femminile. Alla Next Emerson non è male. Alla. Però penso sia maschile. Potremmo introdurlo, però, dai. Ul. Non sbagliamo. Comunque, contando che è un CSA, quindi un centro sociale autogestito, direi che è al. Posto questo, la domanda è giusta. Breaker sono quelli che fanno la break dance, suppongo. Ma soprattutto, a che ora e quando? Non lo sappiamo. In questo momento non lo sappiamo. Arrangiatevi. No, cercate. Sicuramente interessati. Una serata pazzesca. Andate a cercare sul sito, probabilmente appariranno le informazioni. A breve. State allerta. Dai, andiamo avanti. Stay Wombat. Sabato 20. Stay Wombat con sabato 20. Perché è una cosa, c'è una cosa importante sabato 20. In Piazza della Calza alle ore 15, la rete dei collettivi fiorentini, che abbiamo avuto ospiti, a Fuoco alle Polveri, organizzano il corteo antifascista in seguito a un fattaccio avvenuto il 22 dicembre proprio lì in Piazza della Calza, dove una giovane donna di un collettivo studentesco è stata antisessista, è stata appunto aggredita dopo aver rifiutato di prendere un volantino dato da dei fascistelli. E appunto loro stavano volantinando contro l'immigrazione e l'arrivo degli immigrati, e questa ragazza, insomma, ha dimostrato il suo dissenso. E loro hanno pensato bene di metterle al muro e anche di, insomma, di dargliele, per poi scappare a gambe levate. Quindi c'è la necessità di rispondere a questi atti con atti altrettanto forti, altrettanto concreti. Quindi tutti in Piazza della Calza alle ore 15. Ma andateci, partecipate, poi la sera dovete scappare. Perché, caro Tuco? Sai cosa c'è? Certo, c'è una cosa pazzesca. C'è la presentazione di Macerie Prime, la nuova opera di Zero Calcare, alle ore 16 al K100, al Camilo Sanfuegos, a Campi Bisenzio. Niente, è la nuova opera, cioè pazzesco. Zero Calcare, cioè, ma l'hai letta? No, io l'ho letto. Io sì. Io no. Niente, queste sono questioni soggettive. No, assolutamente. No, a me no, è piaciuto. Devo essere sincero. Benissimo. È spoilerata tutta, maledetto. No, non è spoiler. È bello, dai. A te sì, vabbè, ma tanto poi Zero Calcare c'ha tutti i suoi rigiri che sono quelli. Esatto. Comunque, purtroppo, nel senso che si accavallano, alla Polveriera c'è un altro evento. Aspetta, scusa, perché Zero Calcare è alle ore 16 al K100. Sì. L'abbiamo detto? Certo. Sì, bene, pardon. Dicevo, Jay, cosa sì. Al Polveriera? No, in realtà non si accavallano, perché alle 16 c'è Zero Calcare, invece alle 19 fino alle 23 c'è Cannibalta alla Polveriera. Giusto. Cioè nuove fagocitazioni sonore. E appunto c'è scritto: primo appuntamento con i rituali tribali di Ur Suoni, che è un'etichetta discografica indipendente. Sì. Che abbiamo anche ospitato. Hanno ospitato Fuoco alle Polveri. Vabbè. E poi appunto c'è questa rassegna di etno punk lusofono con aperitivo alle 19. Più FFFF DJ set, e alle 21 appunto inizia il concerto di Caveira a Gogo. A Gogo. UR suoni sempre. Sì, e invece alle 10 c'è questa Arabia Saudagi. Arabia Saudagi, sì. Sì. Qui c'è scritto che la produzione è di Milano, non so se è un altro concerto. Lepers, sì, no, nel senso che esatto, il disco è prodotto da dall'etichetta Lepers. Ok. E niente, quindi quella è l'ultima cosa che c'è in polveriera sabato 20. Bello, bel programma. Bello, un sabato bello pieno. Ma non vi preoccupate perché avete qualcosa da fare anche domenica. Non poche. Allora, domenica avete diverse scelte. A Next Emerson ci sarà la milonga organizzata da Tango Sognato. Dico bene? Milonga organizzata da Tango Sognato, sì. In un posto... Che è il gruppo di tango che si ritrova all'Emerson, giusto? Allora, hai aperto gli orari? Sì, allora, è una milonga, intanto si chiama La Matinée di Tango Sognato e è praticamente una milonga pomeridiana perché si svolge presso i locali del Next Emerson, bellissimi fra l'altro, dalle 15 alle 20 e niente, una milonga. Sapete cosa è una milonga? No, esatto, no. Me lo dici. È l'evento dove viene ballato il tango. Quindi è una serata. Sì, sono lunghe le milonghe. Sono lunghe le milonghe. Però attenzione, perché il posto è bellissimo, ma richiede un'accortezza. Dovete prenotare. Qui c'è la prenotazione obbligatoria. Mannaggia. Sì, dovete chiamare Beatrice al 333 11 48 968. Okay. E chiamate un po' prima. Allora, giusto per chiarezza, dove si possono trovare queste informazioni? Su? Queste informazioni le trovate sulla piattaforma Fai Tango, che è praticamente un sito che raccoglie gli appuntamenti di tango di tutto il mondo. Di tutto il mondo. Fighissimo. E niente, questo. Appunto, niente, andate, se siete dei tangheri oppure se vi piace la musica, se volete semplicemente stare lì a guardare o ad ascoltare, non ci sono problemi, c'è una piccola quota da lasciare per il finanziamento del progetto Tango Sognato, però poi è tutto da godere. Allora, invece, aiutaci un po', Cap, per invece quest'ultimo evento alle ore 21, sempre al Next Emerson. Okay. No, non lo so, perché magari è un ambito... No, sentiamo, perché non ho idea, non ho sotto gli occhi la rassegna eventi, dunque c'è una sorpresa. Concerto per Buongustai, dall'estremo, okay. Con il side project dei Monumental Agatocles. Ok, penso sia Monumental Agatocles. Ecco, però che tu conosci. Idea. No. Evidentemente puoi esplicarci. No, non conosco. Ah, okay. Come si chiama il side project? Il side project dei Monumental Agatocles. Come si chiama? G.I. Joke. Ok. G.I. Joke Agatocles Side Project. Grid marchiato di tradizione del Belgio. Okay. Che come tutti sapete. Ah, grind, bello. Ok, esatto, ok, ho capito. Ah, ok. Bene, là ci siamo. Il grind. Bello. Sì, il grind per i nostri ascoltatori è, che lo sai, dici meglio sicuramente. No, il grind metal è un genere molto violento che. Come dire, comprime la rabbia, i testi e la musica in molto poco tempo e sono di solito delle mazzate che variano dai 15 secondi al minuto e mezzo tendenzialmente. Molto figo, avrei detto, usato proprio le stesse parole. Ma non solo dal Belgio. Ma non solo dal Belgio. Perché c'è anche un grind vecchia scuola a Firenze, ragazzi. È Dragnet, cavolo. Dragnet. Ah, bello. Esatto. Esattamente. Beh, e infine Menstrufonga vediamo se ci riesco io. Menstrupagist. Menstrofagist. Menstrofagist. Caramelle, esatto. Blast coccolosi da Pistoia. Nice, sono opzione. Permette benone. Comunque, quindi serata diversa dal solito, quindi vi consigliamo di andare sì, a... Sì, boh, dipende, per chi? Allora, per me è una bella è una bella iniezione di violenza sonora, sì. Quindi un bel domenica sera... Per rilassarsi. Sì, esatto, per partire in pompa per la settimana. Sicuramente se tu ascolti la domenica questa, il lunedì sarà molto più rilassato. Certo. Scendi, sì. No, di livello. Nel caos del traffico, comunque niente in confronto al grind. Bene, allora, grazie Bricco, grazie Arcav, grazie Jay. Ci sentiamo lunedì prossimo dopo Fuoco alle Polveri, alle ore 18 più o meno, 18.05, troverete il podcast, spammate anche questo, già che ci siete. E Wombat. A tutti. Ciao. Rassegna eventi.